Hashtag Autotrasporti. Lungo le autostrade del sud corrono veloci promesse e buone intenzioni. Sulla Salerno-Reggio Calabria il premier Matteo Renzi annuncia un'accelerata decisiva dei lavori, al punto che entro il 2016 anche sul cantiere infinito dovrà calare il sipario. Nel corso dei decenni altri governi si erano cimentati nell'imprimere a parole il rush finale, ma non è mai andata così, trasformando la Salerno-Reggio Calabria nel simbolo per eccellenza dell'opera pubblica perennemente incompiuta. Per la Palermo-Catania, interrotta da più di un mese in seguito al cedimento di un viadotto, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Significa che al più presto, ma non è ancora detto quando, potranno partire i lavori per realizzare con procedura d'urgenza la bretella stradale attraverso la quale sarà possibile aggirare il tratto interrotto. Spezzata in due, la Sicilia ha fretta di ricucire lo strappo perché nel frattempo il prezzo pagato è stato altissimo e lievita giorno dopo giorno. Oggi al nostro microfono c'è l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo. Noi abbiamo fretta, cioè la Sicilia ha fretta di ricongiungere le due parti spezzate dall'interruzione della 19. Ha fretta sul piano dei commerci, ha fretta della vita delle persone, della salute, dei diritti alla salute, alla scuola. Abbiamo fretta, per cui già ci siamo sentiti con ANAS, aspettiamo proprio la vera delibera. La delibera è quella del Consiglio dei Ministri, poi ci sarà un'ordinanza della Protezione Civile che stabilirà modalità operative, tecniche, amministrative per superare le impasse burocratiche, una appalto, una cosa del genere può ovviamente avere, e l'ordinanza darà i confini precisi della sburocratizzazione che servirà per realizzare nei tempi più brevi possibili quest'opera. Ecco, ragionevolmente, quanto tempo occorrerà prima di veder circolare i veicoli sulla bretella? L'ANAS ci assicura che dal momento dell'aggiudicazione alla ditta, della consegna di lavoro alla ditta, in 3 mesi di tempo massimo si possa realizzare la bretella di emergenza. Poi ci verranno altri 18 mesi per la realizzazione dell'opera definitiva, cioè il nuovo ponte che collegherà la 19. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.